qualcosa che ormai hanno capito in molti, tranne forse al quartier generale del Partito Democratico. Purtroppo le politiche che sono state attuate negli anni, dalla finanziarizzazione dell'economia, la perdita di moltissimi posti di lavoro, hanno creato uno sfaldamento di quella che è la cosiddetta classe media, e questo genera un voto di protesta. Il voto di protesta può incanalarsi in due modi. Uno è quello regressivo, che è stato poi quello che ha portato a Trump, ed è interessante secondo me il fatto che in realtà questo voto non è stato scalfito in larga parte a queste elezioni di midterm. In realtà i repubblicani hanno perso la Camera, ma non è stata una disfatta per loro, come si legge spesso anche così sugli articoli e sui giornali. D'altra parte, il voto di protesta può essere incanalato in maniera progressista su richieste molto molto di sinistra, come ad esempio la sanità gratuita per tutti, l'accesso universale all'università e all'istruzione superiore. Queste sono proposte che sono state portate avanti dalla parte progressista e più radicale di sinistra del Partito Democratico, e anche dalle varie candidate, delle quali si sa abbastanza anche in Italia, come la Ocasio-Cortez, Giulia Salazar, che sono state elette in queste elezioni di midterm e che sono riuscite con questa piattaforma. Ocasio-Cortez parlava ad esempio anche della piena occupazione, quindi un cavallo di battaglia molto dirompente, a ottenere degli ottimi risultati nelle primarie democratiche. Questo però non cambia l'indirizzo del Partito Democratico, il quale purtroppo ha riconfermato, dopo la sconfitta alle presidenziali nelle quali è stato eletto Trump, una dirigenza clintoniana. Questo pur avendo una minoranza che è sempre più ampia di candidati di sinistra, una forte corrente progressista radicale di sinistra, questo chiaramente rappresenta un problema, perché ancora non c'è stato quel rinnovamento nel partito che può permettere al partito di rinnovarsi autenticamente, di combattere autenticamente Trump e il fenomeno in generale della destra regressiva. Come può funzionare uno Stato comunque bipartitico, fortemente, un'organizzazione politica fortemente bipartitica e bipolare, nel momento in cui in qualche modo viene a mancare, almeno a livello sociale, una tendenza di centro, invece si riscontrano queste due tendenze abbastanza polarizzate agli estremi, per quanto si possano chiamare estremi poi quelli americani? Infatti, guarda, la tua domanda è un po' la sfida che attraversa in questo momento il mondo progressista e il Partito Democratico negli Stati Uniti, e peraltro non solo secondo me, perché alcune tendenze simili ci sono state in realtà anche in Europa. Le grandi marce che sono state fatte, le grandi mobilitazioni, non sempre hanno trovato una risposta politica. In qualche modo la società sembra essere più avanti della risposta politica che è stata offerta. Tanto è vero che l'organizzazione dell'opposizione a Trump, che è poi la cosa più interessante secondo me, è stata portata avanti quasi esclusivamente da parte della corrente di Sanders e da parte dei candidati progressisti. Ci sono numerosi sondaggi che dimostrano che nella società statunitense, sembrava impensabile ma in realtà è così, la maggior parte delle persone sono d'accordo con la sanità universale, gratuita, accessibile a tutti, sono d'accordo con il fermare la devastazione ambientale, fermare il cambiamento climatico. Questo può sembrare un paradosso, ma non lo è, nel senso che quel malcontento è stato raccolto più a destra che a sinistra, ma non è un dato di fatto, cioè questo sta nell'articolazione della dialettica politica. Laddove il Partito Democratico ha avuto dei candidati che invece hanno saputo raccogliere quel malessere e hanno avuto una piattaforma abbastanza radicale, abbastanza avanzata su quelle domande, si vede bene che il Partito Democratico tiene e anzi fa meglio. Una cosa molto interessante che si sta muovendo negli Stati Uniti, e sulla quale peraltro ci sono diverse ricerche anche di Harvard, di alcuni centri studi universitari, è l'indicatore delle preferenze dei giovani. In questo senso è molto molto interessante il fatto che non solo molti giovani che magari in altre condizioni non avrebbero votato sono andati a votare. Sappiamo che negli Stati Uniti anche solo che andare a votare diventa un problema, perché è una giornata lavorativa, perché bisogna registrarsi, c'è tutta una trafila anche burocratica da fare per recarsi alle urne. Ma è molto interessante anche il fatto che ad esempio nel 2016 esce questo studio di Harvard che racconta che il 51% dei giovani fra i 18 e i 29 anni non crede nel capitalismo. Questo è molto interessante per due motivi. Il primo, perché rafforza questo, appunto, la mia opinione che dicevo prima, che la società realtà sia in qualche modo più avanti della proposta politica. Nancy Pelosi, che oggi è un po' la candidata in pectore per fare la presidente della Camera, ha ripetuto più volte, lei è una democratica, ha ripetuto più volte di essere profondamente capitalista, e questo è interessante perché invece vediamo che i giovani stanno rimettendo in discussione quel sistema. D'altro canto è altresì interessante il fatto che quando poi a questi ragazzi è stato chiesto allora in quale sistema credi, questi ragazzi non sapevano rispondere. La corrente di Sanders offre una possibile risposta, che poi è la risposta socialista del democratic socialism, come lo declinano loro, quindi una rimessa in discussione proprio dei meccanismi del capitalismo di accumulazione, di profitto, di speculazione, di sfruttamento del lavoro. Quindi si sta costruendo un'alternativa. Ora la sfida più grande, che è un po' quella che è riuscita ad Ocasio-Cortez, è quella di mettere in contatto l'esigenza dal basso, queste nuove anche richieste dal basso, che sono richieste profondamente di sinistra in un certo senso, con un livello di politicizzazione di queste richieste di organizzazione, anche perché, come spiega benissimo Enrico Linbright nel suo ultimo libro su come essere anticapitalisti nel XXI secolo, se non c'è un agente di cambiamento politico, tutte le manifestazioni della società civile rischiano di disperdersi, perché poi fattualmente non c'è mai un'espressione politica che in qualche modo prenda il potere e trasformi il sistema economico e politico che metta in pratica questo cambiamento. Quindi queste elezioni di midterm sono state un po' di passaggio, cioè non si è occasionato questo cambio radicale di rotta, tant'è vero che i democratici hanno rivinto la Camera, ma non c'è stata quell'ondata blu che in molti sembravano un po' descrivere e aspettarsi. D'altro canto però ci sono degli avanzamenti in questo senso, quindi la cosa più interessante è vedere se ci sarà la volontà politica di raccogliere questa istanza di cambiamento che in particolare arriva dai più giovani.